Capitolo 9. Malgrado il freddo. La piccola Marie non parve prestare altra attenzione alle strane parole del bambino se non alla prova di amicizia che vi intese. Lo avviluppò con cura, ravvivò il fuoco e siccome la nebbia addormentata sulla palude vicina non sembrava affatto prossima di radarsi, consigliò Germain di mettersi comodo accanto al fuoco per fare un sonno. «Vedo che state già per addormentarvi», gli disse. «Perché non dite più una parola e guardate la brace come il vostro piccolo faceva poco fa? Su, dormite, baderò io al bimbo e a voi». «Sei tu che dormirai», rispose il narratore, «e io baderò tutti e due, perché non ho mai avuto o meno voglia di dormire. Ho mille idee per la testa». «Mille sono molte», disse la ragazzina con intenzione lievemente canzonatoria. «C'è tanta gente che sarebbe felice di averne almeno una». «Ebbene, se non sono capace di averne mille, ne ho almeno una che non mi lascia da un'ora». «E io ve la dirò, come quello che avevate prima». «Ebbene, sì, dilla, se la indovini, Marie, dimmela tu stessa, mi farà piacere». «Un'ora fa», riprese lei, «avevate l'idea di mangiare e adesso avete quella di dormire». «Marie, io sono solo un bovaro, ma veramente tu mi prendi per un bue. Sei una ragazza cattiva e vedo che non vuoi chiacchierare con me. Allora dormi, sarà meglio che criticare un uomo che non è allegro». «Se volete chiacchierare, chiacchieriamo», disse la giovinetta mettendosi semicoricata vicino al bambino e appoggiando la testa contro il basto. «Mi state tormentando, Germain, e in questo modo non dimostrate molto coraggio per essere un uomo. Cosa dovrei dire io se non fossi del mio meglio per difendermi dal mio stesso dolore?» «Sì, hai ragione, ed è proprio questo che mi preoccupa, mia povera piccola. Stai per andare a vivere lontana dai genitori in un brutto paese di lande paludi, dove prenderai le febbri autunnali, dove le bestie da lana non rendono nulla, il che addolora sempre una pastora di buona volontà. Infine sarai fra estranei che forse non saranno buoni con te, che non comprenderanno quello che vali. Guarda, questo mi addolora più di quanto riesca a dirti, e ho voglia di riportarti da tua madre invece di andare a Forge». «Parlate con molta bontà, ma senza ragionare, mio povero Germain. Non si deve essere vile per i propri amici, e invece di mostrarmi il lato cattivo del mio destino, dovreste mostrarmene quello buono, come facevate quando mangiavamo dalla Rebesh». «Cosa vuoi? Mi sentivo in un modo in quel momento, e adesso mi sento diversamente. Faresti meglio a trovare un marito». «Ciò non è possibile, Germain, ve l'ho detto, e dato che non è possibile, non ci penso». «Ma se infine lo trovassi?» «Forse, se tu volessi dirmi come lo desidereresti, riuscirei a immaginare qualcuno». «Immaginare non significa trovare. Io da parte mia non immagino nulla perché è inutile». «Non avresti intenzione di trovare un ricco?» «No, di certo, dato che sono povera come Giobbe». «Ma se fossi in condizione agiata, non ti dispiacerebbe essere ben alloggiata, ben nutrita, ben vestita e in una famiglia di brava gente che ti permettesse di aiutare tua madre?» «Oh, per questo sì, aiutare mia madre è tutto ciò che desidero». «E se ciò avvenisse, anche se l'uomo non fosse più nella prima giovinezza, non faresti troppo la difficile?» «Perdonatemi, Germain, è proprio la cosa che non vorrei succedesse. Non amerei un vecchio». «Un vecchio no, di certo. Ma per esempio un uomo della mia età?» «La vostra età è troppo avanzata per me, Germain. Andrebbe bene uno dell'età di Bastien, sebbene lui non sia un uomo bello come voi». «Preferiresti Bastien il porcaio?» chiese Germain di malumore. «Un ragazzo che ha gli occhi fatti come quelli delle bestie che conduce». «Passerei sopra i suoi occhi a causa dei suoi 18 anni. Germain si sentì terribilmente geloso. «Già», gli disse, «vedo che sei proprio innamorata di Bastien. È buffo non di meno». «Sì, sarebbe buffo», rispose la piccola Marie ridendo a crepapelle, «e lui sarebbe un marito davvero buffo. Gli si darebbe ad intendere tutto ciò che si vorrebbe. Per esempio, l'altro giorno ho raccolto un pomodoro nell'orto del curato. Gli ho detto che era una bella mela rossa e lui vi ha dato un morso come un ingordo. Se aveste visto che smorfia, mio Dio, quanto era brutto. Dunque, non lo ami dato che lo prendi in giro? Non sarebbe una ragione, ma non lo amo. È manesco con la sua sorellina ed è sporco». «Ebbene, non ti senti attratta da qualcuno?» «Cosa ve ne importa, Germain?» «Nulla, è per parlare. Vedo, bambina, che hai già uno spasimante in testa». No, Germaine, vi sbagliate. Non ne ho ancora. Potrà venire più tardi, ma dato che mi sposerò solo quando avrò messo da parte un po' di soldi, sono destinata a sposarmi tardi e con un vecchio. Ebbene, prendine subito uno vecchio. No, di certo. Quando non sarò più giovane non me ne importerà. Adesso invece sarebbe diverso. Capisco, Marie, che io non ti andrei bene. È piuttosto chiaro, disse Germaine con dispetto e senza dar peso alle proprie parole. La piccola Marie non rispose. Germaine si chinò verso di lei. Dormiva, era caduta nel sonno che l'aveva vinta e come fulminata, come fanno i bambini che dormono già mentre sbadigliano. Germaine fu contento che lei non avesse prestato attenzione alle sue ultime parole, riconobbe che non erano sagge e le voltò le spalle per distrarsi e pensare ad altro. Ma ebbe un bel tentare, non riuscì a dormire né a pensare ad altro che a quello che aveva appena detto. Girò 20 volte attorno al fuoco, si allontanò, ritornò. Finalmente, sentendosi agitato come se avesse inghiottito della polvere da sparo, si appoggiò contro l'albero che dava riparo ai due bambini e li guardò dormire. «Non so come ho fatto a non accorgermi», pensava, «che questa piccola Maria è la ragazza più graziosa del paese. Non è molto colorita, ma ha un visino fresco come una rosa di cespuglio. Che bocca graziosa e che nasetto carino. Non è alta per la sua età, ma è fatta come una piccola quaglia, leggera come un fringuello. Mi chiedo perché dalle nostre parti si faccia tanto caso alle donne alte, formose e ben colorite. La mia era piuttosto esile e pallida, e mi piaceva tanto così». Questa è tutta delicata, ma non le è inferiore. È carina da vedere come un capretto bianco e poi caria dolce, onesta. Come le si legge il buon cuore negli occhi, anche quando sono chiusi nel sonno. Quanto a spirito, ne ha più di quanto ne avesse la mia cara Catherine. Bisogna convenirne e con lei non ci si annoierebbe. È allegra, saggia, laboriosa, affettuosa e divertente. Non vedo cosa ci si potrebbe aspettare di meglio. «Ma perché sto a preoccuparmi di tutto ciò?» si diceva poi Germaine cercando di guardare da un'altra parte. «Il suocero non vorrebbe sentirne parlare e tutta la famiglia mi prenderebbe per matto. Del resto lei stessa non mi vorrebbe, la povera bambina. Mi trova troppo vecchio, me l'ha detto. Non è interessata, non si preoccupa di sopportare ancora miserie e pene, di portare poveri abiti e di soffrire la fame per 2 o 3 mesi all'anno, pur di accontentare il suo cuore un giorno e di potersi dare a un marito che le piacerà. Ha ragione lei. Io farei altrettanto al suo posto e da questo momento, se potessi seguire la mia volontà, invece di imbarcarmi in un matrimonio che non mi attira, sceglierei una ragazza che mi piaccia». Più Germaine cercava di ragionare e di calmarsi, meno ci riusciva. Si allontanava di 20 passi a perdersi nella nebbia e poi, tutto ad un tratto, si ritrovava in ginocchio accanto ai due bambini addormentati. Una volta volle persino baciare Petit Pierre, che aveva un braccio passato attorno al collo di Marie, e si sbagliò, così che questa, sentendo un alito caldo come il fuoco scorrere sulle sue labbra, si svegliò e lo guardò con un'aria tutta sgomenta, non comprendendo nulla di ciò che succedeva in lui. «Non vi vedevo, miei poveri bambini», disse Germaine ritraendosi ben rapidamente, «stavo per cadere su di voi e farvi del male». La piccola Marie ebbe il candore di crederci e si riaddormentò. Germaine passò dall'altra parte del fuoco e giurò a Dio che non si sarebbe mosso di là fino a che lei non si fosse svegliata. Mantenne la parola, ma non senza fatica. Credette di impazzire. Infine, verso mezzanotte, la nebbia si dissipò e Germaine poté vedere le stelle brillare attraverso gli alberi. Anche la luna si liberò dai vapori che la coprivano e cominciò a seminare diamanti sul muschio umido. I tronchi delle querce restavano di una maestosa oscurità, ma un po' più lontano i fusti bianchi delle betulle sembravano una fila di fantasmi nei loro sudari. Il fuoco si rifletteva nella palude e le rane, cominciando ad abituarvisi, azzardavano qualche nota flebile e timida. I rami angolosi dei vecchi alberi, irti di pallidi licheni, si stendevano e si intrecciavano come lunghe braccia scarne sopra la testa dei nostri viaggiatori. Era un bel luogo, ma così deserto e così triste che Germaine, stanco di soffrirvi, si mise a cantare e a gettare dei sassi nell'acqua per stordirsi e vincere la noia spaventosa della solitudine. Desiderava anche svegliare la piccola Marie e quando vide che questa si alzava e guardava il tempo, le propose di rimettersi in cammino. «Tra 2 ore», le disse, «l'avvicinarsi del giorno renderà l'aria così fresca che non potremo più restare qui malgrado il nostro fuoco. Adesso vediamo di incamminarci e troveremo bene una casa che ci verrà aperta, o almeno qualche fienile dove potremo passare al coperto il resto della notte. Marie non aveva volontà e, sebbene avesse ancora una gran voglia di rimettersi a dormire, si accinse a seguire Germain. Questi prese suo figlio tra le braccia senza svegliarlo e volle che Marie gli si avvicinasse per coprirla sotto il suo mantello, dato che lei non voleva riprendere la propria cappa in cui era stato avvolto il piccolo Pierre. Quando sentì la ragazza così vicina, Germain, che si era distratto e rallegrato un po', ricominciò a perdere la testa. Due o tre volte si allontanò bruscamente, lasciandola camminare da sola. Poi, vedendo che faceva fatica a seguirlo, l'aspettava, la tirava svelto accanto a sé e la stringeva così forte che lei ne era stupita e persino arrabbiata senza osare dirlo. Siccome non avevano la minima idea della direzione che avevano preso partendo, non sapevano quale stessero seguendo. Cosicché rifecero ancora una volta il giro del bosco. Si trovarono di nuovo di fronte alla landa deserta, tornarono sui loro passi e, dopo aver svoltato e camminato a lungo, scorsero un bagliore attraverso i rami. Bene, ecco una casa, fece Germain, e della gente già sveglia, dato che il fuoco è acceso. È dunque molto tardi? Ma non era una casa, era il fuoco di un bivacco che avevano coperto andandosene e che si era riacceso per via della brezza. Avevano camminato per 2 ore per ritrovarsi al punto di partenza. Capitolo 10. Sotto le stelle. Questa volta ci rinuncio, disse Germain, picchiando un piede a terra. Ci hanno gettato il malocchio, è sicuro, e non usciremo di qui che in pieno giorno. Bisogna proprio che questo posto sia indiavolato. Su, coraggio, non arrabbiamoci, disse Marie, e rassegniamocene. Faremo un fuoco più grande. Il bimbo è avviluppato così bene che non rischia nulla e non moriremo certo per passare una notte all'aperto. Dove avete nascosto il basto, Germain? Nel bel mezzo dei grandi agrifogli? Che stordito! È proprio comodo andare a riprenderlo. Tieni il bambino, prendilo, che io ritiro il suo letto dai cespugli. Non voglio che tu ti punga le mani. È già fatto, ecco il letto. E qualche puntura non sono certo colpi di sciabola, riprese la brava ragazza. Lei procedette di nuovo a mettere comodo il piccolo Pierre, addormentatosi tanto profondamente questa volta che non si accorse minimamente di quel nuovo viaggio. Germain mise tanta legna sul fuoco che il bosco tutt'attorno ne risplendeva, ma la piccola Marie non ne poteva più e, sebbene non si lamentasse di nulla, non si reggeva più sulle gambe. Era pallida e batteva i denti per il freddo e la debolezza. Germain la prese fra le braccia per scaldarla. L'inquietudine, compassione, moti di tenerezza irresistibile, impossessandosi del suo cuore, fecero tacere i suoi sensi. La lingua gli si slegò come per miracolo e ogni vergogna sparì. Marie, le disse, tu mi piaci e sono infelice di non piacerti. Se volessi accettarmi come marito, non ci sarebbero né suocero, né parenti, né vicini, né consigli che potremmo impedirmi di darmi a te. So che tu renderesti felici i miei bambini, ai quali insegneresti a rispettare il ricordo della loro madre, e la mia coscienza, essendo a posto, io potrei accontentare il mio cuore. Ho sempre provato amicizia per te e adesso mi sento così innamorato che se mi domandassi di esaudire le tue volontà per tutta la vita, te lo giurerei subito. Ti prego, renditi conto di come ti amo e cerca di dimenticare la mia età. Pensa che è un'idea sbagliata quella che ci si fa secondo la quale si ritiene vecchio un uomo di 30 anni. D'altra parte non ne ho che 28. Una ragazza teme di farsi criticare prendendo un uomo che ha 10 o 12 anni più di lei, perché non è un'abitudine del paese. Ma ho sentito dire che in altri paesi non vi si fa caso, che al contrario si preferisce dare per sostegno a una giovane un uomo saggio e con coraggio ben collaudato, piuttosto che un ragazzo che può traviarsi e dal buon soggetto qual era ritenuto diventare un cattivo soggetto. D'altronde gli anni non sempre fanno l'età. Questo dipende dalla forza e dalla salute che si possiedono. Quando un uomo è consumato per l'eccesso di lavori di miseria o per cattiva condotta, è vecchio prima dei 25 anni. Mentre io. Ma tu non mi ascolti, Marie. Vi ascolto, Germain, e vi sento bene, rispose la piccola Marie. Ma penso a quello che mi ha sempre detto mia madre. E cioè che una donna di 60 anni è ben da compiangere se ha un marito di 70 o 75 anni, che non può più lavorare per nutrirla. Diventa infermo E bisogna che lei lo curi nell'età in cui lei stessa comincia ad avere una gran necessità di riguardo e di riposo. È così che si finisce sul lastrico. I genitori hanno ragione a dire questo, ne convengo, Marie, riprese Germaine, ma in fin dei conti sacrificano tutta la giovinezza, che è il periodo migliore, a prevedere ciò che si diventerà nell'età in cui non si è più buoni a niente e in cui è indifferente finire in un modo oppure nell'altro. Ma io non corro il rischio di morire di fame nella vecchiaia. Sono in grado di accumulare qualcosa, dato che vivendo con i genitori di mia moglie lavoro molto e non spendo nulla. D'altronde ti amerò tanto, vedi che ciò mi impedirà di invecchiare. Si dice che quando un uomo è felice si conserva e sento davvero di essere più giovane di Bastien per amarti. Perché non ti ama, lui è troppo sciocco, troppo bambino per capire come sei bella e buona e fatta per essere richiesta. Su, Marie, non detestarmi. Non sono un uomo cattivo. Ho reso felice la mia Catherine, che ha detto davanti a Dio sul letto di morte di non aver avuto da me che felicità e che mi ha raccomandato di risposarmi. Sembra che il suo spirito questa sera abbia parlato al suo bambino nel momento in cui si è addormentato. Non hai sentito cosa diceva e non hai visto come tremava la sua boccuccia mentre i suoi occhi guardavano nel vuoto qualcosa che noi non potevamo vedere. Vedeva sua madre, stanna sicura. Ed era lei che gli faceva dire che ti voleva per sostituirla. Germaine, rispose Marie tutta sbigottita e pensosa. Voi parlate onestamente e tutto ciò che dite è vero. Sono sicura che farei bene ad amarvi, se ciò non arrecasse troppo dispiacere ai vostri suoceri. Ma cosa volete che ci faccia? Il cuore non mi parla in vostro favore. Vi sono affezionata, ma sebbene la vostra età non vi imbruttisca, mi fa paura. Mi sembra che voi siate qualcosa per me, come uno zio, un padrino, che vi debba rispetto. E credo che ci sarebbero dei momenti in cui mi trattereste come una ragazzetta piuttosto che come vostra moglie, vostra uguale. Infine, i miei coetanei mi prenderebbero forse in giro. E sebbene sia una sciocchezza badare a ciò, credo che avrei vergogna e sarei un po' triste il giorno delle nozze. Sono delle ragioni infantili. Parli proprio come una bambina, Marie. Ebbene, sì, sono una bambina, disse lei, ed è a causa di ciò che temo un uomo troppo ragionevole. Vedete bene che sono troppo giovane per voi, dato che già mi rimproverate di parlare senza giudizio. Non posso avere più ragionevolezza di quanta ne comporti la mia età. Ahimè, mio Dio, allora sono da compiangere per essere così maldestro e per dirti così male ciò che penso, esclamò Germaine. Marie, voi non mi amate, questo è il fatto. Mi trovate troppo semplice, troppo rozzo. Se mi amaste un po', non vedreste così chiaramente i miei difetti. Voi non mi amate, ecco tutto. Ebbene, non è colpa mia, rispose lei un po' ferita dal fatto che lui non le desse più del tu. Faccio quello che posso ascoltandovi, ma più ci penso e meno posso mettermi in testa che noi dobbiamo essere marito e moglie. Germaine non rispose. Si prese la testa fra le mani e fu impossibile per la piccola Marie sapere se piangeva, se teneva il broncio o se si era addormentato. Fu un po' inquieta nel vederlo così abbattuto e non potendo indovinare ciò che gli passava per la testa, ma non osò parlargli di nuovo e dato che era troppo sbalordita da quello che era appena successo per aver voglia di dormire ancora, attese il giorno con impazienza, curando sempre il fuoco e vegliando il bambino, di cui Germaine pareva non ricordarsi più. Tuttavia, Germaine non dormiva affatto, non rifletteva sulla propria sorte e non faceva né progetti di matrimonio né piani di seduzione. Soffriva, aveva un macigno di malinconia sul cuore. Avrebbe voluto essere morto. Tutto pareva dover mettersi male per lui e se avesse potuto piangere avrebbe versato tutte le sue lacrime. Ma c'era un po' di collera contro se stesso, mista al dolore, e si conteneva senza potersi e volersi lamentare. Quando il giorno fu venuto, annunciato a Germaine dai rumori della campagna, egli levò il viso dalle mani e si alzò. Vide che anche la piccola Marie non aveva dormito, ma non le seppe dire nulla per dimostrarle la propria sollecitudine. Era completamente scoraggiato. Nascose di nuovo il basto della gris nei cespugli, si mise la sacca sulle spalle e, tenendo suo figlio per mano, disse: Adesso, Marie, cercheremo di terminare il nostro viaggio. Vuoi che ti conduca a Ormeaux? Usciremo dal bosco insieme, gli rispose lei, e quando sapremo dove siamo andremo ognuno per la sua strada. Germaine non rispose Era ferito dal fatto che la ragazza non gli chiedesse di accompagnarla fino a Ormo e non si rendeva conto di averglielo offerto in un tono che sembrava voler provocare un rifiuto. Un boscaiolo che incontrarono dopo circa 200 passi li mise sulla buona strada e disse loro che dopo aver passato il grande prato non avevano che da prendere l'una alla sinistra e l'altro andare sempre dritto per raggiungere le loro diverse mete, che erano d'altra parte così vicine che dalla fattoria di Ormont si vedevano distintamente le case di Forche e viceversa. Poi, dopo che ebbero ringraziato e sorpassato il boscaiolo, questi li richiamò per domandar loro se per caso non avessero perso un cavallo. «Ho trovato», disse, «una bella giumenta grigia nel mio cortile, obbligata dal lupo a cercarvi rifugio. I miei cani hanno guaito per tutta la nottata e sul far del giorno ho visto la bestia sotto il mio capanno. È ancora là. Andiamoci, se la riconoscete, portatevela via». Germaine, dopo aver dato in anticipo i connotati della grisa ed essendosi convinto che si trattava proprio di lei, si mise in cammino per andare a cercare il suo basto. La piccola Marie si offrì di condurre il bambino a Ormont, dove lui sarebbe andato a riprenderlo dopo aver fatto la sua entrata a Forche. «È un po' sporco dopo la notte che abbiamo passato», disse lei. «Pulirò i suoi vestiti, gli laverò il suo bel musetto, lo pettinerò e quando sarà tutto pronto potrete presentarlo alla vostra nuova famiglia». «E che ti dice che io voglio andare a Forche?» rispose Germaine di malumore. «Forse non ci andrò nemmeno». «Davvero, Germaine, dovete andarci». «Ci andrete», riprese la ragazza. «Hai molta fretta che io mi sposi con un'altra, per essere sicura che non ti darò più noia». «Su, Germaine, non pensateci più. È un'idea che vi è venuta nella notte perché quella brutta avventura vi aveva un po' sconvolto. Ma adesso bisogna che ridiventiate ragionevole. Vi prometto di dimenticare ciò che mi avete detto e di non parlarne mai a nessuno». «Parlane se vuoi. Non ho l'abitudine di rinnegare le mie parole. Ciò che ho detto è vero, onestamente, e non ne arrossirei davanti a nessuno». «Sì, ma se la vostra futura moglie sapesse che al momento di arrivare da lei avete pensato a un'altra, ciò la indisporrebbe nei vostri confronti. Dunque, fate attenzione alle parole che direte d'ora in poi. Non guardatevi così davanti alla gente, con quell'aria tutta particolare. Pensate a Papà Maurice che conta sulla vostra obbedienza e che sarebbe in collera contro di me se vi distogliessi dal fare la sua volontà. Buongiorno, dunque, Germaine. Porto con me Petit Pierre, perché siate costretto a recarvi a Forche. Lo tengo come se fosse un vostro pegno». «Allora, vuoi andare con lei?» chiese l'aratore al figlio, vedendo che il piccolo si attaccava alle mani della piccola Marie e che la seguiva risolutamente. «Sì, papà», rispose il bambino che aveva ascoltato e capito a modo suo ciò che era appena stato detto senza diffidenza davanti a lui. «Me ne vado con la mia graziosa Marie. Tu verrai a riprendermi quando avrai finito di sposarti, ma io voglio che Marie rimanga la mia mammina». «Vedi bene che lo vuole lui», fece Germaine alla ragazza. «Ascolta, Petit Pierre», aggiunse, «io lo desidero che lei diventi tua madre e che resti sempre con te, ma è lei che non vuole. Fai in modo che ti conceda ciò che mi rifiuta». «Stai tranquillo, papà mio, le farò dire di sì. La piccola Marie fa sempre quello che voglio». E si allontanò con la ragazza. Germaine rimase solo, più triste e più irrisoluto che mai. Capitolo 11. La bella del paese. Tuttavia, quando ebbe accomodato i propri vestiti e i finimenti del cavallo dopo il disordine del viaggio, quando ebbe montato sulla Grise e ottenuto indicazioni sulla strada per Forche, pensò che non doveva più tirarsi indietro e che doveva dimenticare quella notte di agitazione come un sogno pericoloso. Trovò papà Leonard sulla soglia della sua casa bianca, seduto su di una bella panchina di legno dipinto di verde vivo. C'erano 6 gradini di pietra disposti a scalinata, il che rivelava che la casa aveva una cantina. Il muro del giardino e della canapaia era intonacato con calce e sabbia. Era una bella abitazione, ci mancava poco che la si prendesse per una casa di borghesi. Il futuro suocero venne incontro a Germaine e, dopo avergli domandato per 5 minuti notizie di tutta la sua famiglia, aggiunse la frase destinata a interrogare gentilmente coloro che si incontrano al termine del loro viaggio. «Siete dunque venuto per passeggiare da queste parti?» «Sono venuta a trovarvi», rispose l'aratore, «e a offrirvi in dono questa modesta selvaggina da parte di mio suocero, dicendovi, ancora da parte sua, che dovete sapere di certo con quali intenzioni vengo da voi. Fece papà Leonard, ridendo e battendosi le mani sullo stomaco sporgente. Capisco, comprendo, ci sono. E strizzando l'occhio aggiunse: Non sarete sola a fare il vostro discorsetto, mio caro giovanotto. Ce ne sono già tre in casa che aspettano come voi. Io, da parte mia, non mando via nessuno e sarei molto imbarazzato nello sceglierne uno, dato che sono tutti dei buoni partiti. Tuttavia, a causa di papà Maurice e della qualità delle terre che voi coltivate, preferirei che il prescelto foste voi. Ma mia figlia è maggiorenne e padrona di ciò che possiede. Agirà dunque secondo la sua volontà. Entrate, presentatevi, mi auguro che siate il fortunato. Scusate, disse Germain, fortemente sorpreso di trovarsi in sovrannumero dopo aver contato di essere il solo. Non sapevo che vostra figlia fosse già provvista di pretendenti e io non ero venuto per disputarla agli altri. Se avete creduto, dato che voi tardavate a venire, che mia figlia fosse sprovvista di corteggiatori, rispose papà Leonard senza perdere il suo buon umore, vi siete sbagliato di grosso, ragazzo mio. La Catherine ha di che attirare i pretendenti e non avrà che l'imbarazzo della scelta. Ma entrate in casa, vi dico, e non perdetevi d'animo. È una donna che vale la pena di essere disputata. E spingendolo per le spalle, disse con rude gaiezza entrando in casa: Guarda, Catherine, eccone un altro. Questo modo gioviale ma grossolano di essere presentato alla vedova in presenza degli altri suoi aspiranti finì per mettere a disagio e di malumore l'aratore. Si sentì goffo e rimase qualche istante senza osare alzare gli occhi sulla bella e sulla sua corte. La vedova Guérin era ben fatta e non mancava di freschezza, ma aveva un'espressione e un modo di vestire che non piacquero a Germain sin dal primo momento. Aveva l'aria ardita e soddisfatta di sé e la sua cuffietta guarnita da una tripla fila di merletti. Il suo grembiule di seta e il suo scialletto di pizzo nero corrispondevano poco all'idea che lui si era fatto di una vedova seria e regolata. Quella ricercatezza nell'ambito e quella maniera disinvolta gliela fecero trovare vecchia e brutta, sebbene la donna non fosse né l'una né l'altra cosa. Egli pensò che un abbigliamento così grazioso e delle maniere tanto vivaci sarebbero stati adatti all'età della piccola Marie e che quella vedova aveva lo scherzo pesante e azzardato e portava senza distinzione i suoi begli ornamenti muliebri. I tre pretendenti erano seduti a una tavola carica di vini e carni, che erano là per loro per tutta la mattinata della domenica. Infatti, a papà Leonard piaceva far mostra della propria ricchezza e anche alla vedova non spiaceva affatto fare sfoggio del suo bel vasellame e tenere tavola imbandita come una possidente. Germain, semplice e fiducioso qual era, osservò le cose con sufficiente acutezza e per la prima volta in vita sua rimase sulla difensiva mentre beveva. Papà Leonard l'aveva forzato a prender posto con i suoi rivali e sedendosi lui stesso di fronte a Germain lo trattava nel migliore dei modi e si occupava di lui con predilezione. Il dono della selvaggina, sebbene Germain mi avesse tolto qualcosa per sé, era ancora abbastanza abbondante da produrre un certo effetto. La vedova parve avervi fatto molto caso. I pretendenti vi gettarono uno sguardo pieno di sdegno. Germain si sentiva a disagio in quella compagnia e non mangiò con appetito. Papà Leonard ci scherzò su. Eccovi ben triste, gli disse, e fate il broncio al vostro bicchiere? Non bisogna che l'amore vi tolga l'appetito, perché uno spasimante a digiuno non sa trovare delle belle parole come quello che si è schiarito le idee con una punta di vino. Germain fu mortificato, sentendo che già lo si sospettava innamorato, e l'aria manierata dalla vedova, che abbassò gli occhi sorridendo, come una persona sicura del fatto suo, gli fece venir voglia di protestare. Ma temette di far la figura dell'incivile, sorrise e si armò di pazienza. Gli spasimanti della vedova gli parvero tre tangheri. Bisognava che fossero molto ricchi perché lei accettasse le loro profferte. Uno aveva più di 40 anni ed era quasi grosso quanto papà Leonard. Un altro era cieco d'un occhio e beveva tanto che ne era imbruttito. Il terzo era giovane e piuttosto piacente, ma voleva fare dello spirito e diceva cose così insulse da far pietà. Eppure la vedova ne rideva come se avesse apprezzato tutte quelle stupidaggini e in questo non dava prova di gusto. Germain credette dapprima che la donna ne fosse innamorata, ma subito si rese conto che lui stesso era incoraggiato in modo particolare e che ci si augurava che si abbandonasse un po' di più. Quella fu per lui una ragione per sentirsi e mostrarsi più freddo e più serio. Giunse l'ora della messa e ci si alzò da tavola per recarvisi insieme. Bisognava andare fino a Mer, a una buona mezza lega di distanza, e e Germaine era così stanco che avrebbe proprio desiderato d'avere il tempo di farsi prima un sonno, ma non aveva l'abitudine di perdere la messa e si mise in cammino con gli altri. Le strade erano piene di gente e la vedova camminava con aria fiera, scortata dai suoi tre pretendenti, dando il braccio ora all'uno, ora all'altro, tutte impettite con la testa alta. Avrebbe davvero desiderato mostrare il quarto agli occhi dei passanti, ma Germaine trovò così ridicolo l'essere trascinati così tutti quanti da una gonnella alla vista di tutti, che si tenne a distanza conveniente, chiacchierando con papà Leonardo e trovando il modo di distrarlo e di occuparlo abbastanza perché loro due non dessero l'impressione di far parte della compagnia.